Au, stiamo quasi nel 2018, ancora c'è sta al carcere. Ma dai! Poco Dio! Poco Dio! Giovedì 16 novembre alle ore 19.30 presso la sala da tè del Forte Prenestino, presentazione in super anteprima della nuova Scarceranda 2018. Dal 1999 l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Giovedì 16 novembre al Forte Prenestino, via Federico Del Pino 100 celle. Scarceranda, l'agenda di Radio Onda Rossa contro ogni carcere. Mas tapa na cara pra me desmoralizar.